Quanto è peggiorata l'immagine del nostro paese negli ultimi mesi? È un po' peggiorata, non c'è dubbio. Cioè, la cosa più fastidiosa è le continue, come dire, battute. Quello è la parte fastidiosa, sì. Ma lei quando è all'estero e chiaramente si rende conto di tutte le potenzialità e anche i meriti dell'Italia, cos'è che le fa più rabbia? Mi fa più rabbia il trovare in continuazione alibi e non avere un grande senso di urgenza. Però visto che ha 47 anni, lei, insomma, 20 anni fa, 25 anni fa, quando ha iniziato, se l'immaginava che saremmo andati indietro? Probabilmente no, cioè uno sicuramente si immagina che in un mondo contemporaneo ci siano dei paesi che per definizione diventeranno più grandi dell'Italia. Ma questo non significa che noi dobbiamo diventare un piccolo paese. Noi possiamo comunque rimanere a essere un grande paese e questo è un grande peccato che non, in questo periodo proprio non ci siamo. La politica rappresenta la società civile, oppure meglio, o addirittura peggio? Io penso che la politica rappresenta, siamo noi a votare, eh. Per cui lei ritiene che tutto sommato siamo arrivati in questa situazione perché andava bene così anche agli italiani? Perché probabilmente chi ci governa è riuscito in decenni a costruire una tipologia di cultura che ha fatto breccia. Ma lei in questo momento, se dovesse indicare una prospettiva, la legherebbe più all'età, cioè al fattore generazionale, alla classe dirigente, a che cosa? Cioè, da qualche parte, insomma, sembra chiaro a tutti, lo dico senza nessuna polemica, che l'attuale classe politica, le responsabilità sono del governo, ma anche l'opposizione alle sue, è, diciamo, ha un'età politica, oltre che anagrafica, un po' alta e un po'. E si chiede molto il ricambio, il ricambio, il ricambio. Ecco, lei il ricambio lo immagina sulla base dei dati anagrafici di che cosa? Ma vede, il vero tema è cosa significa fare politica. È una professione, è un'ambizione, è una missione. Io penso che ognuno di noi possa prestare degli anni, alla politica per il bene del nostro paese, in qualunque tipologia di contesto, grande, piccolo, locale o nazionale. Il punto vero è non pensare che uno debba durare a vita, perché non c'ha altro da fare. E allora lì siamo messi male. La differenza più forte che lei nota quando va all'estero e tratta comunque con gli amministratori politici locali, perché voi rappresentate un investimento, qual è rispetto all'Italia? La velocità.